America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. 13 years after a small and hateful minds conspired to break us, America stands tall and America stands proud. Beh, ieri 11 settembre, ricorrenza del tragico attacco all'America, avete sentito il presidente che dopo il discorso della sera prima ha celebrato questa ricorrenza che devo dire sempre drammatica. Dice: 13 anni dopo che un uomo pieno d'odio ha cospirato per piegare l'America, siamo ancora qui, fieri e a testa alta. C'è stato un minuto di silenzio nei vari luoghi degli Stati Uniti dove ci sono state le vittime, a New York, a Washington, nei campi della Pennsylvania, alla Casa Bianca. Il presidente con i funzionari che erano con lui hanno piegato la testa in segno di rispetto, fianco a fianco. Obama era di fianco a Michelle, c'era il vicepresidente Joe Biden. L'hanno fatto esattamente alle 8:46, l'ora in cui il primo aereo dirottato ha colpito la Torre Nord al World Trade Center. Ecco, una cerimonia, devo dire, emozionante dappertutto. Come vi ho detto, al Pentagono sono stati letti i nomi delle vittime e così via e così via. C'è però da fare un'osservazione. Il presidente dice: siamo ancora qui fieri e a testa alta. Vero, l'America ha sconfitto Osama Bin Laden, ma non ha sconfitto il terrorismo. Ricordiamo che la sera prima Obama ha annunciato un'altra guerra. L'America, 13 anni dopo quell'attentato, 13 anni dopo l'avvio di una guerra contro il terrorismo, è tornata in guerra, di nuovo in Medio Oriente, di nuovo con attacchi aerei, di nuovo contro armate terroristiche che sembrano rigenerarsi senza soluzione di continuità. C'è anche un aspetto, come dire, ironico in tutto questo, ironico e drammatico, perché Barack Obama, che è questo presidente nato alle Hawaii, determinato ad essere il primo presidente del Pacifico, come amava dire all'inizio della sua amministrazione, lo ricordo, nel suo primo viaggio asiatico con cui inaugurò le missioni all'estero, si è trovato Obama, gioco forza, ad occuparsi di questioni da cui voleva solo allontanarsi. E dunque quella che ha dato mercoledì notte alla nazione è stata una risposta e un'emergenza che ha dovuto affrontare sicuramente controvoglia. Sentiamolo. Secretary Kerry was in Iraq today, meeting with the new government and supporting their efforts to promote unity. And in the coming days he will travel across the Middle East and Europe to enlist more partners in this fight, especially Arab nations who can help mobilize Sunni communities in Iraq and Syria to drive these terrorists from their lands. Ecco, Barack Obama, l'avete sentito, dice: l'America non sarà sola, ma sarà la guida di una larga coalizione che includerà il mondo arabo. Ecco, questo è un punto chiave, la partecipazione del mondo arabo. Già ieri abbiamo avuto una notizia importante, perché c'è stato un tavolo di lavoro a Jeddah, in Arabia Saudita, al quale hanno partecipato ben 10 paesi arabi: il Bahrain, il Kuwait, l'Egitto, l'Oman, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, la Giordania, la Turchia, il Libano, lo stesso Iraq. Erano tutti schierati da una parte del tavolo, dall'altra c'era John Kerry. Ebbene, alla fine c'è stato un accordo, questo è un importante successo diplomatico degli Stati Uniti, per l'adesione di questo gruppo di paesi alla coalizione che cercherà di combattere l'ISIS. Non ci sono dettagli su come questa coalizione si muoverà, in parallelo alla coalizione dei paesi occidentali oppure insieme, sarà uno schieramento complessivo, che tipo di azioni faranno. Questi sono dettagli non secondari, perché se da una parte lo schieramento che abbiamo visto ieri a Jeddah è completo e ci sono tutti i paesi arabi che contano, dall'altra, vi dicevo, mancano dei dettagli importanti ed è fondamentale che il mondo arabo a questo punto si schieri davvero non soltanto sul piano diplomatico, sul piano così dell'adesione formale, ma su quello dell'adesione sostanziale, e dovrà combattere fianco a fianco all'Occidente, perché dovrà dare come dire, una dimostrazione concreta non soltanto sul piano operativo, e quindi non soltanto contribuire come sta facendo l'Arabia Saudita, non so, con una base militare dove saranno addestrati dei ribelli siriani che dovrebbero fare da contraltare agli estremisti islamici dell'ISIS, che sono anche loro sunniti, questi ribelli sono sunniti, quelli dell'ISIS sono sunniti, ma ci dovrà essere una dimostrazione di partecipazione sul piano dell'immagine, e questo perché la credibilità degli Stati Uniti e dell'Occidente è a rischio se non si capirà che questi due blocchi stanno lavorando insieme, se la popolazione locale non si renderà conto che 10 paesi arabi stanno combattendo a fianco dell'Occidente contro un nemico comune. Questo è nell'interesse assoluto dei paesi arabi. Dunque, ottimo il primo passo in avanti che abbiamo fatto ieri con la formazione di questa coalizione, ma bisognerà andare avanti fino in fondo. Per esempio, so che Kerry ha chiesto che ci sia un impegno dal punto di vista della comunicazione, che le reti televisive Al-Arabiya e Al Jazeera, tra l'altro è del Qatar, sono reti televisive controllate dai governi, esprimano sul piano della comunicazione quanto importante sia sconfiggere questo male, questo cancro che sta minando alla base, in questo caso, la credibilità del mondo arabo nei confronti del mondo intero. Questi 10 paesi debbono essere parte attiva per la stabilizzazione dell'ordine internazionale, sono iscritti alle Nazioni Unite, sono attivi nelle organizzazioni multilaterali, dal Fondo Monetario, Banca Mondiale al G20, dunque devono rispondere non soltanto con un'adesione formale, ma con una adesione sostanziale molto chiara. Speriamo che questa avvenga nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché ci sono problemi, c'è un Iran sospettoso, c'è una Siria che resta ostile sotto il regime di Assad, ma con questa nuova coalizione del mondo arabo a fianco dell'Occidente c'è davvero la possibilità di voltare pagina in Medio Oriente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, al di là degli aspetti politici e delle coalizioni, resta il fatto che l'America ieri ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 in questa commovente cerimonia. Il paese di nuovo unito, il paese, devo dire, di nuovo in lacrime, perché il ricordo di quella giornata terribile non potrà mai essere cancellato, soprattutto fra coloro che l'hanno vissuto in modo diretto. E dunque vi propongo, in onore di queste vittime e dell'America, America the Beautiful, nella versione di Willie Nelson, in un concerto proprio dedicato alle vittime nel 2001. Willie Nelson, America the Beautiful. A fair, oh fair, for freedom be. Across the wilderness, America, America, God mend thy every flaw, confirm thy soul in self-control, thy liberty. Che è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!